Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Italia sì. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Di questi 86 miliardi teorici, l'Italia quanti dovrebbe metterne realmente? Sentite, buona giornata e arrivederci. Per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando omicida, comando qua, comando qua. Ma se c'è la partita. 86 miliardi di euro buttati perché senza crescita dell'Europa, senza superamento dell'austerità, senza superamento del sangue, sudore e lacrime, senza superamento del rigore insensato voluto da Schäuble e compagni tedeschi, questa Europa non si salva. Primario fantasma, io fantasma non sarò e al tuo plasma dico no. Se pinze fischiettando ti dirò. Siamo qui a constatare che l'accordo firmato da Tsipras questa mattina all'alba peggiore. È molto peggiore di quello che lui ha detto ai greci di rifiutare. Tuono di pinze, viva il tuo tuono di panze. Mi ha deluso anche Tsipras, che ha calato le braghe. L'Italia deve alzare la testa. Allora, voglio fare un appello pubblico a tutti i politici, a cominciare da Brunetta. Si dice Schäuble. Non è difficile. Schäuble, Schäuble, Schäuble, Schäuble. Noi inglesizziamo tutti. Non è difficile. Schäuble. Tutte le lettere vanno le. A U si legge OI. Schäuble. Schäuble. Schäuble. Il migliore è Padoan. Scusi, di quanto, di questi 86 miliardi di quanto paghiamo? Grazie, buonasera. Non è che quando il ministro dell'economia risponde così tranquillizzi moltissimo, anche perché di questi 87 miliardi quanto paghiamo noi? Grazie, grazie, buonasera. La Gran Bretagna, per esempio, ha fatto un ragionamento dal loro punto di vista logico, e cioè noi non siamo nell'euro e quindi, non essendo noi nell'euro, paghino quelli che hanno l'euro. L'eurozona paghi i suoi debiti, paghi l'eurozona sistemi i propri casini, questo è il concetto. Chi ha l'euro paghi chi ha l'euro. Quindi noi, tradotto, non diamo neanche una sterlina o un euro. Ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè. Devo fare un appello pubblico anche a Paola Saluzzi. Ma dove sei finita? Hai il cellulare spento, Paola Saluzzi? Paoletta? Ma mezz'ora fa twittato, tra poco tutti in diretta, è scomparsa. E allo boh. Stadio se ne va. Paoletta, mettiamo la sigla, che così magari ha bisogno di Paola. Dal 2015 Evviva le Rosse torna, ma diventa Evviva la Paola, con Paola Saluzzi e Paola Saluzzi special guest Paola Saluzzi, e altri pittizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Paola, solo un nome eri tu. Qui questi casi mi sa che bisogna spegnere il cellulare e riavviarlo, a meno che tu non ti sia riaddormentata dolcemente, cara Paola. Fino a ieri non so perché. Può succedere. Ed ora che gli amici non ci guardano. Ma c'è un uomo che è sveglissimo, è sveglierrimo, certo, so anch'io perché è molto sveglio. Il mercoledì diventa il mercoledì del direttore, un programma di approfondimento di Luca Dini, con l'insolita presenza di Paola Saluzzi e un altro tizio di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Nulla, nulla. Oh, quella che voleva Luca Dini. Sentite che voce squillante, quella del direttore di Vanity Fair Luca Dini. Chissà perché ha una voce squillante. Tra poco ci dirà dove sta. Sentite prima là. Allora, caro Luca Dini, attenzione, aspetta. Paola Saluzzi. Ma ci sono. Ma dove sei finita? Hai spento il riavviato. Buongiorno, dire. No, posso dirvi una cosa? Sì. Sai quando cambi il gestore telefonico? Ah. E ti dicono. No, aspetta, e ti dicono. E poi a un certo punto la muore. Sì. Alle 6:29. Cioè, cosa hai dovuto fare? Un nuovo contratto dalle 6:29 alle 6:34? No, ho dovuto cambiare la schedina. Ah, ma la schedina. Di corsa, sbrigati. Buongiorno. Allora, buongiorno. Paola, ti faccio sentire in diretta da Luca Dini dove si trova, cari ascoltatori. Poi potete anche dare le vostre reazioni al 349-238-6666. E per i vostri messaggi, lo ripeto bene: 349-238-6666. Reagite pure istintivamente o riflettendo alla location in cui si trova Luca Dini. Dove sei, Luca? Sono dove ancora ieri. Sono a San Francisco. A San Francisco! 9:30 di sera. E tutto è pronto per la cena. Tra poco. E ho davanti un hamburger. Un hamburger? Vabbè, sì, dai. Vabbè, sì. No, non dice la verità, che ha davanti la baia di San Francisco. Esatto. Ho davanti la baia di San Francisco. Prima sì, certo. Ho twittato una foto, sì, è vero. Ci puoi twittare una foto dell'hamburger senza farci vedere che sei in mutande, non lo so, davanti. un selfie con l'hamburger sarebbe bello per tutti gli amici 24 mattino, non so, hai tempo fino alla prossima mezz'ora, dai, magari durante il traffico, se vuoi, dai, pur tuttavia vacanze meritate, insomma, adesso diciamola tutta. Sì, ho capito, ma non sono vacanze in realtà. No, è gran lavoro. Certo, è lavoro, è lavoro. Sì. È lavoro. Che ci fai a San Francisco? Ero a Silicon Valley, ho passato 2 giorni in aria condizionata e mi sono concesso una sera invece al mare, mi sembra giusto. E d'altronde è così, e chi, Paoletta, va per lavoro a Sky, e chi a Radio 24, e chi in India 20 giorni fa. Adesso però Milano, sembra che uno è così, noi dobbiamo. E chi in miniera, quindi voglio dire, noi dobbiamo sempre saperne di più, cioè, sporco lavoro. Ci deve raccontare. Certo. Comunque, ciao, tristezza senza Paola, il mercoledì del mondo è a volto da un buio infinito. No! Questo Roberto da Milano ci aveva già lasciato alle 6:34 minuti. Così. Roberto, dai! Ho fatto il tecnico, ho fatto Meucci 2.0, ma alla fine il telefono ha ripreso. Roberto. Buongiorno, cosa mi sono persa? No, niente, ti sei persa niente, un po' di dichiarazioni, il Parlamento che apre, giustamente. Prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. Saluto anche Lorenzo Nespoli, redazione, Carmelo Lauricella in regia, qui insomma siete stati presi un po' dal trambusto perché i cellulari non prendevano, non suonavano, eccetera. Cosa ti sei perso? Ah, ecco, Luca Dini, ma c'hai l'hamburger per festeggiare l'accordo Stati Uniti-Iran? No. Esattamente per quello. È per quello, sì, sì. Ma allora, perché oggi tutti i giornali non parlano d'altro, se ne parla anche in America, immagino, no? Sì, certo. E cosa fa? Beh, dico, qui se ne parla come di un grosso successo. Sì. Insomma, che ne dica Netanyahu, mi pare che quasi tutti siano d'accordo sul fatto che è una buona notizia. Netanyahu, il premier israeliano, cioè perché è l'accordo col grande Satana. Vi ricordate i tempi in cui era l'Iran era il grande, cioè l'America era il grande Satana da parte di Khomeini, no? E invece era evidentemente. Però non so, non c'è questo timore, sai che in America sono sempre timorosi che abbiano l'arma atomica un domani in Iran. Non mi sembra che ci sia questa preoccupazione, francamente. Mi pare che cioè, no, c'entra poco, però un po' come è successo con Cuba, sono sanzioni e contrapposizioni che vengono ritenute ormai obsolete, superate da tante cose, da nemici e Satana ben peggiori. Sì, purtroppo è così. Tu, Paoletta, te la vedi come una cosa positiva? Vabbè. Ma io sì, penso che senza questo accordo avrebbero avuto l'atomica in quanti mesi? In pochi. In un tempo assolutamente ridotto. Penso che oggi ci sono i giovani che festeggiano per strada a Teheran e ne hanno oggettivamente tutto il diritto, e sarebbe, scrive su Twitter Riccardo Pacifici, bellissimo se incontrassero i loro coetanei di Israele. Credo che ieri sia stata scritta una pagina politica e diplomatica di altissimo valore, punto. Poi se ne deve fare un ottimo uso. Questo è evidente, ma la pagina di ieri è il segno che quando la diplomazia cammina, funziona e funziona bene, si incontrano le persone giuste, funziona bene, punto. Quindi mettiamo un punto a favore di quello che è successo ieri, non contro, secondo me, modestissimo, parere, però insomma credo che sia questo. È il grande dibattito, mentre eccole qui grande le prime... dibattito è un grande presidente degli Stati Uniti, grandissimo presidente degli Stati Uniti. Sì, che pare sia pronto a dire se il Congresso vota contro questo piano, io porrò il mio veto. Perché dice non sono arrivato a fare l'accordo fino adesso per poi farmelo impallinare al Congresso. Quattro guerra fondai, i repubblicani. Intanto ecco qua le prime reazioni. Domenico da Lodi chiede se sia un hamburger nucleare, ma non credo. Mentre ottima location, pessimo cibo, caro però. Direttore Mimmo da Bari dice che potevi forse scegliere qualcosa di più. Ci sono gli invidiosi. No, guarda, qua è meglio l'hamburger. È meglio l'hamburger. Comunque è atomico, perché ha un uovo fritto sopra. Quindi... No, vabbè, adesso vogliamo la foto. Intanto ci scusiamo perché lo mangerai freddo per colpa nostra. Però, comunque, Luca Dini e San Francisco non ce ne frega niente. Ecco che arrivano i primi invidiosi. È quelli che rosicano. Mentre c'è anche un beato il direttore, io oggi farò 11 ore di fonderia. Cribbio, 11 ore però sono un po' tante. Cioè, 11 ore, speriamo che comprendano anche il viaggio di andata e ritorno da casa, perché insomma è un po' troppo. C'è una domanda anche un po' intima per Paola Saluzzi, scusa. Paola, ci scrive un ascoltatore: sono il tuo vecchio operatore, cosa ho fatto per perderti? Operatore telefonico. Operatore. Cosa ti hanno fatto? Vecchio operatore, io ho pensato, operatore, stavi pensando esatto a tutti i tuoi colleghi, stavamo svelando una clamorosa liaison sul lavoro, peraltro per Paola Saluzzi, operatore telefonico, cosa ha fatto? Operatore telefonico, ma si cambia. Si cambia. Che dire, si va dal miglior offerente. Si cambia. Vabbè, leggo anche questa, poi basta, ragazzi, perché sta nascendo un contest. Marco da Milano scrive: Paola, sei come il tramonto sul mare dopo un violento temporale, col disco infuocato che si fa largo tra le nuvole. Vabbè, è meraviglioso. Ma vabbè, ragazzi, ma cosa vi prendete alle 6:32 del mattino? Dai, su, parliamoci chiaro. Vabbè, no. Grazie. Grazie. Allora, vi chiedo questo. Adesso, voi siete disposti a mettere un euro per la Grecia? Perché lo vogliamo fare... Nine. Sì, vabbè, so. Questo è il nine. Il nine un po' duro. Siete disposti a mettere dei soldi per la Grecia? È proprio la domanda brutale, perché alla domanda precisa il ministro Padoan, abbiamo sentito, scusi ministro, quanto dobbiamo mettere noi italiani? Grazie, grazie, buonasera, e se n'è andato. Ho capito, però gli italiani vogliono sapere quello, se dobbiamo ancora pagare dei soldi per la Grecia. Paola, qui solidarietà, va bene tutto, ma che facciamo? Sì, sì, se i soldi che dobbiamo mettere sono una cifra, se non li deve mettere solo l'Italia, ma ne deve mettere tutta l'Europa. Vabbè, questo sì, certo. Ecco, no, nel senso, perché detto così poi sembrerebbe che fossimo, no, soltanto noi pronti a pagare per il resto del mondo. La risposta è sì. Sì, si chiama condominio, si chiama solidarietà, si chiama... Ho capito, se, però... Se uno li deve mettere perché gli altri dicono, sai che c'è, mettili tu, va, che non mi va di metterli, no, questo no. Sì, però io faccio l'esempio del figlio scapestrato che non ha molta voglia di lavorare, no? Cioè, va bene continuare a rifornirgli un po' la paghetta o ogni tanto uno scappellotto? Ma sono scapestrati, è la mia domanda. No, vabbè, ma... Dopo tutti questi anni di tira la cinghia, devono pagare un debito scellerato, fatto da politici scellerati, prima che arrivasse altra politica, che non sappiamo se sia scellerato o meno, ma comunque nessuno lo santifica. Però tutta questa storia sta diventando tanto pesante, per tutti, intendo dire. È chiaro che noi non dobbiamo pagare i debiti altrui, ma il concetto è, un debito comune esiste in Europa? Mm-hmm. Esiste la forza per poter pagare un debito comune, per potersi considerare... La California è andata in default e evidentemente, come dicevamo ieri, nessuno ha staccato la stella dalla bandiera americana, nessuno l'ha scucita dalla bandiera americana, la storia della California, anche perché, insomma, come dire, non sarebbe convenuto a nessuno. Come in che modo deve ancora andare avanti questa vicenda greca? Pagare? Certo, se noi dovessimo pagare 1.000 euro al mese per il debito greco, beh, no, evidente. No, ma la questione è il dubbio, è se continuare a mettere soldi è come mettere l'acqua in un secchio bucato. Certo, è evidente, capire cosa voglia dire tagliare un debito, capire cosa voglia dire gestire in modo diverso l'economia dell'Europa. Magari avessi la ricetta, lo farei, la metterei a disposizione in un attimo. Giustamente un ascoltatore ha detto, io metto 10 euro, basta smettere di parlarne della Grecia. Ecco, già che questo è come non essere d'accordo con lui, insomma. Tu, no? Luca, metteresti dei soldi? E ti chiedo anche questo, ma in America si parla della Grecia o viene visto come un furuncolo del mondo? No, non se ne parla tanto, cioè, si sa che c'è stato un problema, ma francamente non... già l'Europa è lontana, figurati la Grecia. Vabbè. Detto questo, un paio di dollaroni li vuoi scucire anche tu? Ma li abbiamo già scuciti, li scuciremo ancora, per carità. Poi, insomma, mi sembra che le condizioni, cioè in Italia si continua a leggere dappertutto umiliazione qua e là, su e giù. Io continuo a pensarla come ho detto altre volte, secondo me se la sono cercata. E a me dà particolarmente fastidio la posizione di Varoufakis, che era convinto che facendo il bluff gli avrebbero fatto fare qualsiasi cosa, invece non era vero, secondo me, altrimenti Tsipras l'avrebbe fatto. Sì. E semplicemente che alla fine si è reso conto che se mi diceva o così o siamo fuori, la risposta era allora siete fuori. Tsipras che dice anche a me non piace questo compromesso, ma l'ho accettato, l'alternativa era la dracma, casualmente ciò che voleva Schäuble, si dice Schäuble perché l'ho sentito Schäuble. Dai, andiamo al traffico. Luca, se vuoi è il momento, non so, poi vedi tu, devi fare un Twitter. Ho già fatto. Ma hai coinvolto anche noi? Subito. Sono Luca Dini e la account, Luca Dini, ma tra poco lo ritwittiamo tutti, ciao, tra poco il traffico. No, vabbè, adesso vediamo. Eccolo, traffico. Meraviglioso. Meraviglioso. aspetta, fallo guardare anche a me. Traffico. L'unica cosa che è bella di questa trasmissione è il traffico, mandalo, vai. 24 mattino. Ma voi vi ricordate quando la Merkel disse che il professor Monti, presidente del consiglio tecnico, disse mi piacerebbe averlo. Ah, no, no, no, no, è la segreteria di ieri questa, forza. Ma ce l'abbiamo quella di oggi? Ce l'abbiamo? Eccola qua, eccola qua. Ciao Milan, attenti voi due ad ammazzare le zanzare, altrimenti gli animalisti poi ammazzano voi. Attenti, attenti, ammazzate piuttosto Cruciani che vi perdonano. Ciao, ciao. È veramente inaccettabile, Alino, che tu continui a offendere, dicendo ai radioascoltatori dei vosciati. Milan, io la mattina voglio sentire la voce della signorina Marta Cagnola, non la tua. Buongiorno Milan. No, volevo dire due paroline a Tsipras. Ma dove l'ha lasciate le palle? In Grecia? Ti sei efficiente, ti sei fatto impinocchiare dalla Merkel, senza vasellina per giunta, liscio liscio. Ehi, Aina Milan, sono 5 settimane di ferie? Ma che cazzo? E lavori 2 ore al giorno e ti fai ferie di 5 settimane? Non è possibile. Vabbè, c'è un po' una rivolta, c'è un po' una rivolta. Chi vuole la cagnola, chi si lamenta delle mie ferie, ma chi... Paola, ma spieghiamo che tu non lavori 2 ore. Ma no, vabbè, ma come fai a spiegarlo? A parte che sarebbero 2 ore e mezza proprio, se uno vuole andare... Sì, certo, proprio se uno proprio, vuole andare... Vabbè, insomma, comunque è così. Dopodiché, sì. Bacia Marta Cagnola, dopodiché, per carità, andiamo avanti. Ieri c'era una... No, ma ieri c'era una zanzara in studio, volevo ammazzarla qui perché mi disturbava durante la segna stampa, adesso... potrei ammazzare Cruciani. Ti presto le mie mosche. Sì, va bene. Poi noi stiamo lavorando, vabbè, insomma, vabbè. Andiamo avanti. Vabbè. Allora, abbiamo visto l'hamburger. Effettivamente un po' lo mangerai freddissimo, ma tra 5 minuti ti lasciamo, direttore. No, va benissimo. Ma sì, a te piace freddo l'hamburger. piace molto freddo. Sì, sì, sì. Comunque lo potete trovare sul nostro account Twitter, sul mio, Paola Salute. L'abbiamo tutti ritweetato, l'hamburger di Luca Dini a San Francisco. Avete le palette pronte, che c'è da fare un voto da 0 a 10? Certo. Eccoci qua, l'inglese di Matteo Renzi. Tu no, perché noi lo controlliamo come un tutor se migliora. Ieri era in dove? In Etiopia. In Etiopia è andato. No, dov'era? Paola, tu lo sai sicuramente, in Etiopia. Dai, fai sentire questo inglese. Va bene, dai, sentiamo, dai. Sentiamo. The reason why I came here, and I'm sorry for the delay, but we spent a very interesting night in Brussels to save euro and to try to involve sempre... Greek economy in the new strategy. So I'm sorry for the delay. For the delay. Era in ritardo, mi spiace essere in ritardo, ma ho salvato, ero lì a salvare, ero lì in una interessante notte a salvare l'Europa. Vi faccio sentire anche questo, dai, vediamo se magari con all'inizio era un po' trafelato, poi vediamo. I'm sure the real challenge for us is not only save human lives, human being, it's important, it's in our DNA. The real challenge is create jobs here, is create new perspective of hope here, it build a different vision of world here. Sì, sì. Vabbè, Luca. Allora. Allora, è un 6, però ribadisco, ma voi vi ricordate come parlavano gli altri? Sì. Devo dire con una notevole eccezione che era... Cioè, allora, Letta e Monti lo sappiamo parlare, Berlusconi e altri prima di lui, non vorrei ricordarvi Rutelli, ecco. Rutelli. Tu Paola Saluzzi, che voto dai? Ma diamo il voto migliore anche per il coraggio, dai. Su. 7. Vabbè, io do 5 e mezzo, il ragazzo si sta applicando, ma insomma, ancora 6 e mezzo, così non usciamo dal 5, 6 e mezzo, dai, cioè, vabbè, no. Dai, un 6 di incoraggiamento è bellissimo. 6 di incoraggiamento è notevole. 6 di incoraggiamento, dai. Allora, io qua Vanity Fair, l'ultimo numero, c'è una bella famigliuola, soprattutto per la componente femminile adulta, Michelle Hunziker in prima pagina. E vabbè, Michelle Hunziker in prima la pagina. La componente femminile. Sì, perché c'è anche una bambina, è bellissima, perché te, allora però facevo l'apprezzamento alla componente femminile della famiglia adulta. Ma voglio segnalare l'articolo. Oh, vedi che voi avete intervistato il papà, ve lo ricordate, di Anders Breivik, quello che ha fatto quella strage terribile. 77 ragazzi uccisi a Oslo. Perché l'avete intervistato, Luca? Perché spesso si dice, io anche, me lo rinfacciano tutti coloro quando io dico, ma insomma uccidono in nome del Dio, i musulmani, quelli fanatici, eccetera, e tutti mi dicono, Breivik, non te lo ricordi tu? Forse abbiamo quello noi. Beh, in effetti bisognerebbe ricordarselo, perché è l'uomo comunque che... Cioè, è il terrorista singolo più sanguinario della storia, cioè sì. 77 persone. E comunque ha ucciso in nome di uno sconclusionato odio e rancore verso l'Islam. Sì. Siccome viviamo agitando anche spettri, paura e divisioni, eccetera, bisogna molto ricordarsi che anche agitare spettri, divisione e paura è un pochino pericoloso. Ce l'abbiamo anche qua. Noi. No, avete intervistato il padre, c'è un'intervista al padre di Anders. Sì, il padre è un Breivik. Uomo abbastanza, insomma, ancora, cioè, distrutto, certo. Insomma, è una cosa che non si può neanche immaginare. Cioè, un giorno accendi la TV e vedi che tuo figlio ha fatto una cosa così, con tutte le responsabilità che puoi avere, francamente. E questo sì. Cara Paola, io ti devo lasciare oggi a Sky, tu vai avanti ovviamente. Ma io per Breivik, ma non solo noi andiamo avanti tra ovviamente Grecia, sì. Tutto ciò di cui ci sia ancora da dire su questo piano nucleare, mm-hmm. che dovrebbe garantire il condizionale d'obbligo, ma insomma gli attori giusti a questo punto ci sono, speriamo che la cosa funzioni nel migliore dei modi. Ma per soggetti come Breivik, comprendendo sì. perfettamente la disperazione del padre, io proporrei degli scambi culturali con prigioni in altri angoli del mondo. Sì, un po' meno. Breivik lo manderei, per esempio, culturalmente parlando, in una bella prigione di quelle fuga di mezzanotte, sai, quelle sì, così. Sì, in Turchia, sì. No, lasciamolo lì che insomma, dai, è meglio così. Buon hamburger, caro Lucadini, e grazie. Alla prossima con Paoletta Saluzzi. Please visit the website, but please visit Italy. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:17 minuti, siamo pronti a leggere i giornali, ancora con uno che ci ha scritto, ci ha detto prima in segreteria telefonica, si offende perché vi chiamo debosciati miei, amici miei, debosciati di tutta Italia. Ma è un vezzeggiativo, è un modo simpatico per appellarvi, debosciati, come state? Perché noi ci svegliamo alle 5, allora facciamo un po' pesare questa cosa agli altri, voi magari vi sveglierete alle 4:30, alle 4:40, magari però alle 8, magari vi siete svegliati da 2 minuti, siete ancora stropicciati lì nei vostri letti o nelle vostre lunghe colazioni, allora così vi dico benvenuti anche a voi debosciati d'Italia. Allora oggi avremo ospite Alessandro Sallusti, che è il direttore del giornale, e Antonio Padellaro, che è stato il direttore del Fatto Quotidiano. Ogni tanto chiamiamo questa accoppiata di opinionisti, direttori, per cercare di capire come va l'attualità, a cominciare ovviamente dalla Grecia, ma non solo. La domanda che si pongono tutti è: pagheremo dei soldi noi italiani per la Grecia? Il Ministero dell'Economia assicura di no. E vedremo, parleremo di questo, l'attualità politica in Italia. Intanto andiamo a leggere i giornali, per l'appunto. È mercoledì 15 luglio e vi do una notizia: è estate, fa caldo. Allora, il Sole 24 Ore, come molti giornali, apre sull'accordo sul nucleare. Iran, accordo sul nucleare, via le sanzioni economiche. Questo è il titolo di prima pagina. Anche per il Corriere della Sera, patto storico dell'America con l'Iran. Repubblica, Iran, la pace nucleare. Questo è il titolo di prima pagina. Per la Stampa, accordo con l'Iran, sì al nucleare, ma non avrà la bomba. Iran senza atomica, storica intesa, è anche il titolo di apertura del Messaggero. mentre per l'unità nucleare no grazie. Questo è il titolo di prima pagina. Iran, patto nucleare, anche Avvenire apre così. Le aperture diverse sono invece Libero, arrivano le nuove regole, rivoluzione in banca, come difendere i soldi. Mentre il giornale, il fisco spia anche il bancomat, siamo schiavi dello Stato. L'apertura del Fatto Quotidiano invece è sugli nuovi arresti, retata in campagna, richiesta d'arresto anche per un parlamentare, Sarro di Forza Italia. Il titolo del Fatto è I Cosentinos, a Roma vanno con Renzi, a Napoli in galera. Queste alcune delle aperture dei giornali, certamente sull'Iran leggeremo qualcosa più avanti. Prima però l'iniziativa di un sindaco in provincia di Novara, il comune è Invorio, che finisce sulla Stampa e che pare sia un esempio al quale vogliono attingere un po' tutti i comuni d'Italia. Già nel titolo si capisce: non puoi pagare l'IMU e la TASI, poti, alberi e aiuti i netturbini. Il sindaco di Invorio introduce questa sorta di baratto, dice, è previsto dalla legge. Cinza Bovio scrive a pagina 16 della Stampa: il cittadino non ha i soldi per pagare l'IMU e la TASI, nessun problema. Da oggi può pagare il suo debito con l'amministrazione comunale, potando i tigli davanti al municipio, imbiancando i locali della scuola materna, aiutando i netturbini a tenere pulito il centro storico. Si chiama baratto amministrativo e a Invorio, piccolo comune di 4.500 abitanti, è realtà. Da poche ore il regolamento è stato pubblicato sull'albo pretorio e d'ora in poi i cittadini con i requisiti potranno chiedere questo scambio. Il sindaco Dario Piola ha tradotto la teoria in pratica. Il telefono continua a squillare. Sono i comuni di tutta Italia che vogliono prendere esempio, capire come fare. Perché per la prima volta è stata messa in pratica una misura introdotta 8 mesi fa dallo Sblocca Italia. L'articolo 24 prevede misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. E dunque il sindaco ha detto, ecco, come si fa a tutelare e valorizzare il territorio con partecipazioni delle comunità locali? L'idea è questa, come si fa? Non esistevano spunti concreti e tra i comuni ho trovato solo mozioni o delibere di intenti e poi l'idea. L'idea è questa, il regolamento: possono chiedere volontariamente il baratto amministrativo i residenti maggiorenni con indicatore ISEE non superiore a 8.500 euro, contributi comunali non pagati o che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi negli ultimi 3 anni. Ed ecco allora che, eccolo qui, i cittadini, alcuni, scelgono questo. Invece di pagare IMU e TASI, diamo una mano potando un albero o sistemando i rifiuti nel comune. Succede a Invorio, Novara, lo racconta oggi la Stampa. Ed ora dimissioni, è un capitolo abbastanza ampio oggi, a cominciare da un parlamentare. Si è dimesso Luciano Cimmino, lo racconta Paola Zanca a pagina 8 del Fatto Quotidiano. Lascia è l'imprenditore che ha fondato i marchi Carpisa e Yamamai, prestato alla politica, racconta il Fatto: per un anno e mezzo ha trangugiato senza fiatare anche quella ciofeca del caffè che servivano alla Camera, definito da lui stessa. Osservava quel via vai di tazzine, turandosi il naso ogni volta che ne arrivava una a lui. E Cimmino un giorno addirittura ebbe un'idea: portare 5 chili di qualità diversa, arabica e robusta, di caffè alla Camera, perché dice tutto potevo sopportare tranne questa ciofeca di caffè che offrivano alla buvette di Montecitorio. I commessi non si stupiscono, viene provato il nuovo caffè, niente da fare. Al terzo giorno la sentenza dei commessi è lapidaria, non ci piace. Deve essere lì, scrive il Fatto Quotidiano, in quel pomeriggio d'inverno che Cimmino ha cominciato a maturare il proposito a cui è giunto l'altro ieri. Dimissioni. Senza Mario Monti, dice, per me è venuto meno un punto di riferimento fondamentale. Un anno e mezzo di lavoro, il suo contributo ai lavori parlamentari, 2 interrogazioni, 1 ordine del giorno, qualche intervento in commissione. Paola Zanca dice: da imprenditore misurerò i miei risultati, mentre in politica non sempre ci sono riuscito. Si dimette Luciano Cimmino, Cimmino lascia, qui fa schifo anche il caffè. Qui è in Parlamento, titolo del Fatto a pagina 8. Ma dimissioni forse un po' più di peso e un po' più importanti incidono un po' di più almeno sulla stampa, sui giornali e anche sul destino di Ignazio Marino, il sindaco, a questo punto bisogna definirlo più in bilico d'Italia da mesi e mesi, lascia il suo vice Luigi Nieri, ex assessore al bilancio della Regione Lazio, esponente di SEL. Marino perde un altro pezzo, lascia il vice. Pagina 19 del Corriere della Sera, al passo indietro di Nieri che dice: non sono indagato per mafia capitale, le mie dimissioni sono una scelta personale. Per la verità, Repubblica con Giovanna Vitale, dice anche il vice sindaco, lascia la giunta. Marino traballa, era citato Nieri nella relazione del prefetto Gabrielli su mafia capitale. Insomma, la strada sempre più in salita anche per il rimpasto in Campidoglio. Così come lascia il vice sindaco, oh, giornata dura per i vice sindaci, il vice sindaco di Milano. Terremoto in giunta a Milano, se ne va la numero 2 di Pisapia. Ada Lucia De Cesaris, 54 anni, avvocato, esperto di diritto amministrativo ambientale. Dopo la scelta del sindaco di non correre, ecco anche le dimissioni di De Cesaris. Dice lei: è venuta meno la fiducia con una parte della maggioranza in consiglio comunale. Con il sindaco Pisapia che la invita a ritirare le dimissioni, ma lei scrive: problemi insormontabili, e dunque scricchiola in qualche modo anche la giunta a Milano. Momenti un po' così. Allora, prima dell'articolo che ci fa pensare della giornata, una classifica. Sappiate che è questa. Qual è il posto al mondo in cui si mangia meglio? Forza, Carmelo Lauricella. Il paese in cui si mangia è qua, dice ovviamente l'Italia, sud noi l'Italia, siamo italiani. Beh, sicuramente in Italia si mangia benissimo. Io che quando posso viaggio, non è che bisogna essere provinciali, è proprio vero, in Italia è uno dei posti dove si mangia meglio al mondo. Ma un sondaggio della CNN, e per quello che valgono i sondaggi, a pagina 17 del giornale: ma quale Italia nei sogni dei gourmet? Taiwan e Filippine, il posto dove si mangia al mondo, secondo un sondaggio da CNN. Non fare quella faccia, Carmelo, sei mai stata a Taiwan? No, e allora non puoi saperlo. Taiwan è al primo posto, l'ingrediente migliore è il tofu, il piatto i noodles di manzo. Al secondo posto le Filippine, secondo questo sondaggio sempre della Siena. Al terzo posto, eccoci qua, l'Italia. Al terzo posto arriva effettivamente l'Italia. Al quarto posto la Thailandia, poi il Giappone, la Malesia, Hong Kong, India. Mi sa che hanno un po' il vezzo questi del sondaggio per l'Estremo Oriente. Al nono posto la Grecia e al decimo posto il Vietnam. Insomma, due unici paesi non dell'Estremo Oriente o dell'Oriente sono Italia e Grecia. E per il resto scompare la Francia, 8 paesi orientali tra i 10 più gustosi. Al terzo posto l'Italia. Vabbè. Accontentiamoci, poteva andare peggio. Eccolo qua. Mani sul volante, ben salde, per l'articolo che ci fa pensare ed è quello di Franco Bechis su Libero a pagina 11. Ai partiti altri 110 milioni di soldi pubblici. Ma come, direte voi? Ormai i rimborsi elettorali sono un po'... dei rimborsi elettorali ormai non c'è traccia, no? Ci sono solo 21 milioni quest'anno. Il 2 per 1000 IRPEF non è stato un successo, 325 mila euro ai partiti. Allora da dove vengono questi soldi? Eccolo qua, il piatto forte dei soldi pubblici ai partiti è quello dei trasferimenti ai gruppi parlamentari o consiliari, quindi ai gruppi del Parlamento e dei consigli regionali. Si tratta quest'anno di 80 milioni euro. 80 milioni, 32 dalla Camera, 22 dal Senato, 27 ai gruppi delle varie regioni. E questi soldi sono i soldi di cui i partiti, inchieste alla mano, abusano di più. Alcune regioni li hanno ridotti, ma sono ancora molto rilevanti in Sicilia, dove arrivano 6,2 milioni di euro l'anno, in Lombardia 5,9 milioni di euro l'anno, in Liguria 2,2 milioni di euro l'anno, sono erogati ancora da tutti i consigli regionali e portano la cifra a 109.747.879 euro che si ciucciano anche quest'anno dai fondi pubblici i partiti. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Mela, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. Capito? Poi fate voi, Allora, molti giornali aprono sull'intesa storica, certamente, tra Stati Uniti e Iran, l'accordo sul nucleare. Allora, spesso adesso si dice l'accordo sul nucleare, sì, ma che diamine c'è in questo accordo sul nucleare? Beh, intanto partire come sempre dai dati, dalle questioni vere. Allora, pagina 2 del Sole 24 Ore, ci sono i punti chiave di questo accordo, un accordo di 100 pagine, quindi o ve lo leggete tutto parola per parola oppure i punti chiave sono questi. L'Iran ridurrà il numero delle centrifughe da 19.000 a 5.060, impegnandosi a mantenere questo livello per 10 anni. L'arricchimento dell'uranio avverrà solo nella struttura di Natanz. A Fordow invece rimarranno 1.044 centrifughe, ma non per l'arricchimento dell'uranio. E Teheran ha accettato una moratoria di 15 anni sull'arricchimento dell'uranio al di sopra della soglia del 3,67%. Per lo stesso periodo di tempo non conserverà più di 300 kg di uranio a basso livello di arricchimento. Ovviamente l'uranio è quello che serve poi per sviluppare eventuali armi nucleari. L'ispezione nei siti, questa era una delle linee rosse per l'Ayatollah Ali Khamenei. In base all'accordo, le ispezioni nei siti non saranno automatiche né immediate. Il meccanismo prevede che Teheran possa appellarsi a un tavolo arbitrale composto da rappresentanti del proprio paese e del 5+1 che votano a maggioranza. In totale potrebbero passare 24 giorni prima che l'Iran sia obbligato a aprire le porte dei propri siti agli ispettori. Le sanzioni, non appena l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avrà verificato l'implementazione dell'accordo da parte dell'Iran, verranno revocate tutte le sanzioni ONU e degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Se l'intesa verrà violata, le sanzioni rientreranno in vigore nel giro di 65 giorni. Infine, l'embargo sulle armi resterà in vigore per altri 5 anni o 8 in caso di tecnologia legata ai missili balistici. Questi sono i punti chiave di questo accordo, poi piaccia o no va studiato. Certamente il Corriere della Sera con Paolo Valentino racconta, pagina 2, la storia è tornata ieri mattina a Vienna, dove si è firmato questo accordo sul nucleare iraniano, raggiunto all'alba nella capitale austriaca, che chiude una disputa ultradecennale, pone un freno alla proliferazione, apre nuove prospettive politiche. Una maratona negoziale durata 18 giorni consecutivi, densa di torsioni polemiche, passaggi drammatici. Alla fine i ministri degli esteri di Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Germania e Iran hanno concordato questo grande compromesso che impegna Teheran a smantellare buona parte delle sue infrastrutture atomiche, ponendo limiti drastici per oltre 10 anni a ogni attività in questo campo. In cambio, ovviamente, c'è il progressivo abbattimento del muro di sanzioni che hanno isolato e messo in ginocchio l'economia persiana dal 2006. Obama in America dice: se il Congresso, che ricordiamo è dominato dai repubblicani, Camera e Senato, se il Congresso pone un veto su questo accordo, io sono pronto a usare il mio potere di veto per rovesciare le decisioni del Congresso. E le polemiche sono soprattutto in Israele. Israele, con il premier Netanyahu, dice, storico nemico di Iran, dice: è stato un errore clamoroso. È stato un errore da parte di Netanyahu, la dichiarazione è stato un errore quello che è stato questo accordo. Però racconta il Corriere della Sera con Davide Frattini che Israele è sulle barricate, tutte le opzioni sono ancora aperte. Non basta certo una telefonata di rassicurazione da parte di Obama. Netanyahu definisce un impressionante errore storico quello di dare questo accordo. Israele dice alla fine l'Iran tra qualche anno potrà dotarsi di armi atomiche, ed ecco allora che la risposta è anche economica da parte degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, racconta il Corriere, sono pronti in qualche modo come risarcimento, mettiamolo così, a rimpinguare i quasi 3 miliardi di euro l'anno che già dà in aiuti militari allo Stato ebraico. Questo scrive il Corriere della Sera. Trionfo, scrivono alcuni giornali, anche primo successo diplomatico di Federica Mogherini, ex ministro degli esteri italiano, oggi alto rappresentante europeo per la politica estera e la sicurezza. Era seduta ovviamente in tutte le trattative, durante i giorni di trattative, in questo accordo importante. Sono convinta, dice, intervistata dal Corriere della Sera, pagina 9, sono convinta che l'Unione Europea in particolare abbia un grande interesse in quello che succederà da adesso in poi. L'accordo è una vittoria globale su tre livelli: quello della non proliferazione nucleare in primo luogo. Avremmo avuto una escalation militare ingestibile senza accordo. Secondo, è un investimento sulle giovani generazioni iraniane che oggi salutano con entusiasmo la notizia. La terza dimensione, dice la Mogherini, è quella regionale e internazionale. Il capitale politico speso in questo esercizio porterà dividendi per una leadership iraniana che ha scommesso su dialogo, cooperazione e trattativa. Ovviamente ci sono, il mondo si divide tra timorosi e falchi che dicono no, guardate che così avete dato in mano all'Iran la possibilità di dotarsi di arma atomica un domani o un dopodomani. C'è un'Arabia Saudita che dice beh, se la date all'Iran allora guardate che anche noi, visto che l'Arabia Saudita è sunnita, l'Iran predominanza sciita, allora c'è questo conflitto anche. Con l'Arabia Saudita che dice allora li prenderemo anche noi le armi nucleari. C'è invece l'economia italiana che certamente guarda con grande soddisfazione a questa possibile apertura. Matteo Meneghello racconta, pagina 5 del Sole 24 Ore, di come l'export italiano nel prossimo quadriennio potrà beneficiare di 3 miliardi di potenziale esportazioni per un mercato iraniano pronto a consumare e che è pronto ad aprirsi. L'export italiano può fare il balzo, 3 miliardi di euro nel prossimo quadriennio, questa è la cifra di possibili sviluppi delle esportazioni dell'economia italiana in Iran, e vanno anche considerate ovviamente queste cifre. Oh, l'altro fronte internazionale rimane molto aperto, è quello della Grecia. La domanda che si fanno tutti è: dobbiamo pagare di questi 86 miliardi che probabilmente verranno dati alla Grecia se ci sarà l'implementazione dell'accordo, insomma, piripì piripà, dobbiamo pagarli noi una parte? Anche ieri il ministro dell'economia ha detto di no, cioè per gli aiuti non serve un euro in più dei soldi che già l'Italia ha versato e sono già stati messi contabilizzati nel debito e versati nel 2014 nel fondo salva stati europeo. È da lì che verranno presi i soldi per la Grecia. Anzi, a ennesima domanda, l'abbiamo fatto sentire anche in audio, alla domanda a Padoan, senta ma dobbiamo pagare dei soldi? Grazie, grazie, buonasera. Era un Padoan anche un po' infastidito da questo continuo rimando alla domanda che però tutti gli italiani si fanno, cioè se bisogna pagare ancora. L'opposizione dice di sì, Salvini dice Renzi non tiri fuori dalle tasche degli italiani un solo centesimo di euro per darlo alle banche tedesche che speculano sulla Grecia. Il ministero all'economia tranquillizza, non dovremo dare soldi. Londra invece lo mette proprio nero su bianco. Londra, niente soldi alla Grecia. pagina 8 della stampa, ma comunque c'è ovunque. Il cancelliere britannico Osborne, polemico con l'Unione Europea, dice: non partecipiamo al prestito ponte. D'altronde noi in Gran Bretagna siamo fuori dall'euro, abbiamo la sterlina, e quindi risponda all'eurozona degli euro da dare alla Grecia. E quindi la Gran Bretagna, un po' come sulla questione dell'immigrazione, ricordate tutta la polemica Cameron, noi non prenderemo un migrante, e insomma in Gran Bretagna si sfilano moltissimo anche sul tema Grecia. Tsipras dice: sarebbe stato un disastro uscire dall'euro. Ovviamente adesso Tsipras deve convincere il proprio partito Siriza a votare questo accordo, a farlo in qualche modo digerire. Lo stesso Tsipras, racconta Repubblica con Ettore Livini, dice: anche io non ero favorevole a questo compromesso. Il compromesso non piace nemmeno a me, ma non fuggo davanti alle responsabilità. L'alternativa era il ritorno alla dracma, guarda caso quello che vuole Schäuble, cioè il ministro delle finanze tedesco, e io ho firmato. È per questo che anche Laura Boldrini, presidente della Camera, in un'intervista al Corriere della Sera, intervistata da Monica Guerzoni, definisce Tsipras coraggioso e responsabile. Ha calcolato che avere quella linea di finanziamento fino a 86 miliardi avrebbe offerto al suo paese una prospettiva, evitando il contagio. Ha assunto decisioni lungimiranti, dice Laura Boldrini. Ciò che fa di lui un leader di grande personalità, le pagherà, forse anche rispetto alla tenuta del governo, ma l'analisi che lo vede umiliato è un'analisi superficiale. Boldrini poi dice: il rigore miope comunque rischia di disgregare l'Europa. Ricorda per esempio: il rigore disgrega l'Europa, il cammino deve ripartire dagli orfanotrofi della Grecia, dove i bambini abbandonati sono aumentati del 300%. È facile adottare misure drastiche da parte di paesi come la Germania, che hanno sussidi per chi non ha occupazione, ma in Grecia o in Italia il reddito minimo garantito non esiste, e chi a 50 anni perde il lavoro rischia di dover dormire dalla Caritas. Quindi Laura Boldrini dice: no rigore miope europeo. Varoufakis invece, come si dice in gergo, la tocca piano. Quello che ha fatto Tsipras è come il golpe dei colonnelli della Grecia del 1967. Vabbè, Mauro Meazza, come al solito, ci scioglierà i dubbi. Allora, ha fatto bene a firmare Tsipras, sì o no? Buongiorno, ma siamo passati dal coinvolgimento in questioni legali. Vedi che te ne tengo fuori. Alle grandi domande. Poi facciamo anche qualcosa sull'immortalità dell'anima. E... No, non, chi non siamo? Ho idea, però leggo qui. Dove andiamo? Esatto, da dove veniamo? Ma soprattutto che facciamo? Io leggo qui che Tsipras ha bisogno, dunque, scrive Beda Romano sul Sole 24 ore, tra 7 e 12 miliardi di euro. Subito. Sì, di qui a metà agosto, e sempre al Sole 24 ore il commento di Sorrentino mi ricorda che entro il 20, cioè il lunedì prossimo, intanto per dire, servirebbero 3 miliardi e mezzo da rimborsare. Poi ci sarebbero anche 600 milioni di interessi, ma vabbè, adesso sta a guardare il capello. Sì. Insomma, le cose non sono del tutto chiare, e poi oggi c'è naturalmente l'attesa per il voto. In più il Fondo Monetario Internazionale dice: tagliamo il debito greco, in realtà parla del debito nei confronti della BCE, non del debito suo nei confronti appunto del Fondo Monetario, ma vabbè, tutto questo e molto altro sul Sole 24 ore, caro. Insomma, Milan. L'idea è paghiamo o no? Senti Padoan, ieri la domanda, te lo di faccio. 86 miliardi teorici, l'Italia quanti dovrebbe metterne realmente? Sentite, buona giornata e arrivederci. Ecco, Mauro, no, non tranquillizza tantissimo questa cosa. Però. No, ma forse lui intende che essendoci già delle disponibilità italiane apposte, non la questione non è chiusa. Basta. Il ricorso al fondo, al vecchio fondo salva stati, vecchio si fa per dire, sì, insomma, sì. Cioè di qualche anno fa, non è così semplice, lo ricordavi anche tu, per ad esempio la posizione di Londra e un certo europeismo, come dire, a singhiozzo. Senti, ti voglio anche dire che leggendo il Sole 24 ore di oggi ho scoperto che ci mancherebbero anche 1738 presidi nelle scuole e bisognerebbe trovarli però entro settembre, non so bene come la cosa si possa conciliare. Oggi dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della buona scuola, quindi entrare in vigore. La vicenda è abbastanza ingarbugliata, ti invito a leggerla nelle pagine di politica del Sole 24 Ore. O poi, naturalmente, a proposito di Padoan, visto che mi hai fatto ascoltare questo augurio in diretta, ti voglio dire che ieri era a trattare appunto con Bruxelles per la bad bank. La bad bank. Esatto, cioè il sistema di superare, insomma, l'incaglio dei crediti deteriorati nelle nostre banche. Vediamo se la UE si convince. Tra l'altro, a proposito di Londra, ma sai che sulle pagine di Finanza di oggi ho scoperto che c'è un gap, sì, per dirla all'inglese, gap, un divario nelle retribuzioni tra uomini e donne del 19%. È vero, se sei donna e laureata guadagni 19% in meno. A parità di mansioni, non è bellissimo, devo dire, siamo messi meglio. Quindi Mauro Meazza metterà a disposizione parte del suo stipendio a una collega oggi al Ma anche Alessandro Milan, volendo guardare, certo, ovvio, senza contropartite di altra natura, mi raccomando, non facciamo, no, perché ho capito dove andavi a parare. No, Mauro. Allora intanto segnati 11 settimane, sì, decisive da oggi, sì, perché entro 20 giorni le province devono comunicare l'elenco degli esuberi, entro 40 le regioni devono completare l'elenco, altri 20 per la funzione pubblica per verificare il tutto, e così e poi abbiamo fatto il trasferimento degli esuberi. Bene. Fanno 11 settimane e 3 giorni, non so, conta tu che sei più bravo su questa cosa, ma trovi tutto questo in norme e tributi, naturalmente, che tu devi sempre leggere con attenzione, laddove riportiamo anche il dato del TFR di giugno. E altro per non ti voglio dire, anche se molto altro ti potrei dire, e quindi traffico. Alessandro Milan, giornalista, rain. Vabbè, 02 4652 4492 è la nostra segreteria telefonica, potete mandare la vostra sigla creativa, se volete potete dire quello che volete, poi noi la mandiamo in onda, la segreteria telefonica, come sapete. Allora, ci sono state vicissitudini parlamentari, diciamo così, inchieste, un'inchiesta a Napoli soprattutto, per la quale si richiede l'arresto del parlamentare di Forza Italia Carlo Sarro, che è vicepresidente della Commissione Giustizia, nonché componente della Commissione Antimafia, richiesta d'arresto anche per l'ex senatore dell'Udeur Tommaso Barbato, divenne famoso quando ci fu il concitato finale del governo Prodi perché sputò addosso a un compagno di partito in aula perché non aveva votato contro il governo Prodi. Sono 13 le ordinanze di custodia cautelare in totale, le due più celebri che riguardano persone più celebri sono queste, un parlamentare e un ex parlamentare. L'accuse da parte della direzione distrettuale antimafia sull'inchiesta sulle infiltrazioni della camorra casalese negli appalti per la realizzazione della rete idrica del Casertano. Ovviamente su tutti i giornali ci sono la difesa intanto di Sarro, che viene intervistato da Fabrizio Roncone, viene chiamato, risponde al secondo squillo con la voce fredda, profonda, e dice: bruttissima sensazione, orribile, allucinante, io sono innocente, faccio l'avvocato da 30 anni, ho fatto il sindaco del mio paese per 10, sono parlamentare da 8 e mai, dico mai, pur lavorando in territori complicati, mai sono stato sfiorato da un millimetro di schifezza, pulito sempre, e adesso, e lascia la frase un po' così in sospeso, scrive Fabrizio Roncone, davvero non riesco a capire di cosa mi si accusi, io mi occupavo soltanto di pianificazione e controllo delle tariffe. Anche Cantone, scrive il Corriere, ha detto che conoscendola personalmente è rimasto stupito dalla richiesta d'arresto. Bontà sua, ci conosciamo, probabilmente ha capito che il sottoscritto in vita sua non ha mai preso nemmeno una multa. E vabbè, insomma, si difende lui, che è diventato da poco verdiniano a questa categoria, no? Sarro. E dice: sì, arruolarsi tra i verdiniani è stata una mossa sbagliatissima. Vabbè, e poi quindi racconta anche del suo travaglio politico: dopo essere diventato verdiniano è tornato berlusconiano subito nel giro di due giorni. Comunque ci sono tante notizie su questa inchiesta. Qualche notizia invece di cronaca per chiudere. Questa è una cosa preoccupante, un'indagine che riguarda il binge drinking. È una moda brutta diffusa tra i giovani. si chiama, tecnicamente si può tradurre così, una buffata alcolica. Pensate, racconta Claudia Voltattorni sul Corriere della Sera, che è stato fatto un sondaggio, un'indagine, 6 liceali su 10 nel Lazio, 6 su 10, confessano almeno una volta abbiamo provato il binge drinking, la buffata alcolica, cioè il consumo di alcol uno dietro l'altro nella stessa sera per sballarsi e andare via di testa. Il 60% dei liceali del Lazio dichiara di aver partecipato alla buffata almeno una volta, l'abuso di alcol. Questo lo trovate sul Corriere della Sera ed è un dato certamente preoccupante. A proposito di alcol, movida, che succede a Bologna? Franco Giubilei sulla Stampa scrive a pagina 13 l'ordinanza del comune di Bologna che vuole evitare la movida, come dire, un po' esagerata, e allora ha fatto un'ordinanza il comune di Bologna che impedisce ai supermarket, i negozietti, quelli soprattutto tenuti dagli stranieri nel centro di Bologna, di vendere la birra ghiacciata. Sono obbligati a venderla calda, e la birra calda è imbevibile. Contro la movida il comune ordina i market vendano solo birra calda. Cioè piscio praticamente. Cioè, ma che è? A Bologna la serra, e ovviamente i negozi si arrabbiano, serrata contro l'ordinanza che inaugura la guerra contro le restrizioni. La birra calda, così non te la bevi, non sballi e non vai a far casino. Ma siamo al momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali. Torna la nostra amica selvaggia Lucarelli a trionfare in prima pagina del Fatto. E poi un'intera pagina, a pagina 19, su come scegliere i posti delle vacanze. Tra Ibiza, il Salento, la Grecia, i low cost, Bali. Bali. E tutte le varie tendenze. Dove andare se sei fricchettone, se sei esotico, se vuoi il brivido a tutti i costi. Dove vanno in vacanza? Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Sono le 8 e 19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, ieri Matteo Renzi, il premier, era in Etiopia e si è presentato così, chiedendo scusa per il ritardo, ma c'era da salvare l'Europa. The reason why I came here, and I'm sorry for the delay, but we spent a very interesting night in Brussels. Una notte molto interessante per salvare l'Europa e la Grecia. Vabbè, a parte l'inglese, magari questo da rivedere, ma insomma non facciamo le pulci, eh? Non ci sono stati governanti che hanno mai brillato per un inglese perfetto in Italia. Comunque, stavamo salvando l'Europa e la Grecia. Ripartiamo da qui, con una domanda che vorrò approfondire con gli ospiti, perché ci sono 86 miliardi da versare la Grecia. Chi li dà? Detto che ancora ci si interroga politicamente sul fatto se Tsipras sia stato coraggioso o se abbia in realtà svenduto il proprio paese. Per la Boldrini, presidente della Camera, intervistata oggi al Corriere della Sera, Tsipras ha fatto una mossa coraggiosa e lungimirante, visto che l'analisi che lo vede come un premier umiliato è per Boldrini un'analisi superficiale. Così invece la pensa Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, che è stato nostro ospite ieri. Io quella che ho visto di Tsipras ieri è stata una resa totale, incondizionata. L'ultima parola ce l'ha ancora il Parlamento greco. Di bloccare questo piano, mandare a casa Tsipras e almeno far decidere i cittadini greci per le prossime elezioni. Ma Di Maio dice è tra gli eurodelusi, era in piazza Sintagma a esultare per il referendum e poi è rimasto deluso. Così Salvini della Lega. Mi ha deluso anche Tsipras, che ha calato le braghe, l'Italia deve alzare la testa. Ha calato le braghe. Allora, però la domanda stringente è questa: chi pagherà questi 86 miliardi? Ieri il Ministero dell'Economia ha ribadito che dagli italiani, non uscirà dalle tasche degli italiani un euro, perché il meccanismo che porterà i soldi ad Atene è quello del fondo salva stati. Noi abbiamo già dato la nostra quota nel 2014, 14 miliardi, è già stata versata, è già stata contabilizzata nel debito, è da lì che si prenderanno i soldi, quindi non è che si andrà a chiedere ulteriori sforzi. Certo però che il ministro Padoan, a domanda precisa di una giornalista, ha risposto in maniera così non molto tranquillizzante. Di questi 86 miliardi teorici, l'Italia quanti dovrebbe metterne realmente? Sentite, buona giornata e arrivederci. E vabbè, giro le considerazioni ad Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Buongiorno, ciao direttore, ben trovato. Buongiorno. Così come Antonio Padellaro, che è stato direttore, oggi è presidente dell'editoriale SPA. Buongiorno Padellaro, eccoci. Buongiorno, buongiorno. Allora, tranquillizza Padoa? No, no, Padellaro. C'è da dire che forse era un po' infastidito, dice, come dire, ho spiegato che mille volte sì, che non metteremo un euro, mo basta, insomma, non chiedetemelo più. Sì, sì, è chiaro che Padoan non gradisce queste domande, anche se ho l'impressione che quando si parla del fondo salva stati stiamo parlando anche di una partita di giro, no? Perché questi soldi da qualche parte devono anche arrivare, sì. Non è che c'è una produzione di denaro nell'orto dei miracoli dell'Unione Europea, quindi è evidente che ogni Stato, diciamo, darà il suo contributo pro quota, tranne l'Inghilterra. L'Inghilterra ha detto: noi non daremo un euro, non daremo un euro anche perché noi non siamo nell'euro, siamo, quindi al limite daremo sterline, ma non daremo manco quelle, paghi l'eurozona, insomma. E questo... Sì, gli inglesi hanno scelto già da tempo di tirarsi fuori da questa storia. Comunque il tema credo è anche questo, di come l'Italia contribuirà, ma è se servirà qualche cosa, perché poi la domanda vera è questa, no? Cioè, benissimo, mettiamo soldi, aiutiamo la Grecia e viva, abbiamo raggiunto l'accordo, ma questo accordo quanto darà, quanto ossigeno darà alla Grecia, e se non siamo ancora qui di fronte a una situazione che tra un anno, due anni potrà ripetere. Poi bisogna vedere anche che cosa succede ad Atene, sì, che qui abbiamo un governo in una situazione difficilissima, c'è il partito di sinistra di Sisa che si sta spaccando in mille pezzi, c'è un presidente, una presidente del Parlamento greco che è dell'ala dura, è dell'ala dura, sì, dell'ala dura, che dice che oggi farà melina, quindi cercherà di fare in modo che non si arrivi alla fatidica mezzanotte. Tra l'altro, una piccola osservazione: ma questa storia dei due giorni, tre giorni entro i quali, ma è una delle, se la vediamo in maniera così oggettiva, distaccata, intanto è una delle forme più umilianti che si potesse pensare di infliggere a un paese, no? Adesso lo fai in tre giorni, sì. E quindi dimostra anche l'arroganza con la quale, diciamo, perché la Grecia ha una serie di deve scontare delle colpe, certamente non i greci, ma chi ha governato quel paese. Ma si può mettere un paese, un intero popolo in una situazione così umiliante? Ti sembra la forma di arroganza europea? Ma tra l'altro ieri Sallusti sul giornale ha, se volete, svelato un episodio che ci riporta un po' nel passato. Ora, Sallusti, non è che vogliamo rifare la storia del perché nel 2011 è crollato il governo Berlusconi eccetera, però tu hai rivelato un episodio di quel tentativo di umiliazione, leggevo nell'editoriale, che l'Europa, in particolare la Merkel, voleva infliggere a Berlusconi convocandolo e dicendo: devi ottenere un prestito del Fondo Monetario da 90 miliardi, altrimenti, e con tutto quello che ne conseguiva, no? La troica, il controllo, eccetera. Ma è davvero così? Cioè, questa Europa che vuole umiliare gli stati che non stanno alle sue regole? Ma l'episodio me lo raccontò Berlusconi all'epoca dei fatti, siamo nel 2011, inizio 2011, quindi non motivo di dubitare che non sia vero. Durante un G8 venne convocata una riunione straordinaria durante la notte, mi raccontò il presidente, presenti la Merkel, Zapatero, Sarkozy e Obama, e la Merkel disse in maniera molto chiara che la situazione italiana era insostenibile e che bisognava che l'Italia accettasse un prestito del Fondo Monetario Internazionale. Si partì da 30 miliardi la prima offerta, Berlusconi rifiutò, allora 40, 50, insomma, per farla breve, alla fine si arriva a 90 miliardi. E a 90 miliardi Berlusconi, così racconta lui, ma non, ripeto, non ne dubito, picchia i pugni sul tavolo e dice: signori, l'Italia non è in vendita, arrivederci, fate quello che volete, prese Uffì. Io penso che quel disegno di annettere i paesi in difficoltà o addirittura di mandare dei paesi in difficoltà per poi annetterli, perché la Grecia è andata in difficoltà per gli affari suoi, ma poi è stata mandata nella merda dall'Europa con una... perché quel problema che oggi non si riesce a risolvere con 90 miliardi, 3 anni fa era risolvibile. Ho capito, 10. Ma cosa ci sarebbe? Un disegno, qualche burattino dall'alto? Che detta così può sembrare un po' bizzarra, ma da quando esiste l'impero austro-ungarico, che poi diventa Germania e Austria, poi diventa Germania, poi diventa... I tedeschi hanno leggermente, come dire, un'ambizione a governare con le buone e con le cattive, a governare sull'Europa. Sono il paese egemone dell'Europa. Della caduta dell'impero romano sono il paese egemone dell'Europa. Insomma, vista così, è una riproposizione soft del nazismo. Cioè... Beh, ma noi abbiamo chiamato il quarto Reich, l'abbiamo chiamato quarto Reich, quello della Merkel, già da tempo, e pensavamo di essere, come dire, trasgressivi e un po' volgari. Sì. Ma mi risulta che da qualche giorno, anche su giornali prestigiosi come il vostro Journal, e addirittura, ma non l'ho letto personalmente, per cui non ho il Financial Times, parlano di un quarto Reich tedesco. Beh, insomma, non è che magari si può leggere, come dire, noi le regole le rispettiamo, e quindi in più o meno, non è che tutti rispettano tutte le regole, però semplicemente. Sì, ma come dire, certamente loro le regole loro fanno le regole e le rispettano quando loro erano in difficoltà perché dovevano unirsi insieme ai fratelli o cugini ai cugini dell'est. Le regole non le hanno rispettate, hanno chiesto all'Europa di non rispettare le regole. Sì. Quando non riuscivano a pagare i debiti di guerra, hanno chiesto di non pagare i debiti di guerra e l'Europa gli ha consentito di non pagare i debiti di guerra. Cioè, anche questi tedeschi che le regole le fanno, insomma, le rispettano così. Vogliamo sentire però Padellaro, Sallusti, ripeto, non voglio fare la storia del 2011, ma visto che Mario Monti è intervenuto 2 giorni fa da Paragone sulla 7, eccolo qua, lui dice in pratica, con un ragionamento un po' contorto, non dicendolo, non volendolo dire, ma poi lo dice: ho salvato l'Italia. Io non ho detto, l'ha detto gentilmente lei, so che tanti lo pensano, tanti altri non lo pensano, che io abbia, tra virgolette, salvato l'Italia. Certamente è stato il Parlamento con quasi... Quindi tutti. Lei non lo pensa? Lo è salvato l'Italia? Naturalmente sì, ma sto dicendo che non l'ho detto. Naturalmente lo penso, ma non l'ho detto. Faccio questo bagno di umiltà da parte di Mario Monti. Però Padellaro, anche un ascoltatore ci scrive: effettivamente la storia dei 3 giorni, ha ragione Padellaro, ricorda l'ultimatum degli usurai, 3 giorni poi ti spacco le gambe. Vabbè, insomma, adesso messa così. Però faccio io l'europeista convinto allora a dire, ma insomma ci sono anche delle regole, la Grecia ha sprecato, non Tsipras, ma la Grecia che è stata, ha sprecato miliardi, a buttare soldi in un come l'acqua in un secchio bucato, e a un certo punto qualcuno il conto te lo porta o no? No, non c'è dubbio, ma infatti il tema oggi, credo che in questo caso Renzi abbia ragione, è quello dell'austerità. Cioè il discorso è questo: è accettabile che per tenere i conti in regola, quindi facendo i compiti a casa e facendo le riforme, tutte queste belle cose, no? Che poi di cui i governi, giustamente come il governo italiano, vanno orgogliosi, si metta un paese, in questo caso stiamo parlando della Grecia, dobbiamo parlare anche dell'Italia, sì, in una condizione, quella dell'austerità, che blocca lo sviluppo, blocca la crescita, impoverisce complessivamente la popolazione, crea disoccupazione, o comunque adesso qualcosa leggermente di positivo si sta vedendo. Insomma, è questo il tema. Cioè, l'euro è una moneta virtuosa, chiamiamola così, no? che alla quale bisogna ubbidire per inchinarsi di fronte a una serie di regole auree che bisogna rispettare. In cambio di questa genuflessione, abbiamo invece un'economia guardiamo quella italiana, ma anche quella francese, anche quella finlandese, perché abbiamo scoperto che anche la Finlandia, che fa, diciamo, la sentinella con della Germania sul rigore contabile, è in una situazione economica abbastanza negativa. Contro l'austerità si scagliano un po' tutti, no? Beh, è l'austerità, cioè a che serve? A che è servito l'euro? A metterci tutti quanti con un cappio al collo per rispettare una serie di regole? Per carità, i debiti vanno pagati, non stiamo discutendo di questo, ma l'euro non deve essere un meccanismo di progresso, di crescita, di sviluppo, di ricchezza. Ma sta diventando un meccanismo di impoverimento. No, ma intanto registro anche che Padellaro ha detto Renzi ha ragione, che voglio dire, detto tra poco ci arriveremo. Ma lo faccio volentieri quando perché ci arriveremo anche su questa storia delle intercettazioni tra un attimo, che avete pubblicato sul Fatto Quotidiano. Ma Sallusti, però, che doveva fare Tsipras? La domanda è diretta, perché tu l'hai definito, credo, il premier cialtrone, o no? Forse cialtrone. Tsipras doveva tener duro nella maniera. Ma tener duro. Che vuol dire uscire dall'euro vuol dire tener duro, è perché non gli davano più soldi. Se uno non fa un referendum per dire vogliamo uscire o no dall'euro e il suo elettore gli dice sì, non era questo il quesito, però vabbè, insomma, il quesito politico, o quantomeno diciamo così, il referendum era dobbiamo farci umiliare dalla Germania sì o no, la risposta è no. E tu il giorno dopo il referendum vai su e ti accetti delle condizioni umilianti. Che poi anche lì non è solo la Germania. Cioè, ieri Padoan ha detto che a parte Cipro, Italia e Francia erano tutti con la Germania, cioè tutti. Perché la Germania è l'Europa. Ma voglio dire, gli altri paesi che stanno con la Germania, noi stiamo con la Germania, non credo che siamo con la Germania perché siamo convinti che quella sia la strada giusta. Siamo con la Germania perché non possiamo che stare con la Germania. Perché i nostri governi le ha eletti quella cosa lì, adesso non dico la signora Merkel in persona, ma siccome noi non votiamo da quattro presidenti del Consiglio, quei quattro presidenti del Consiglio qualcuno li avrà scelti in Europa e li ha scelti loro, quindi siamo dei dipendenti della Germania. Adesso detta così è un po', come dire, un po' grezza, po' tranchant, ma il concetto politico è che chi oggi ha il coraggio di andare a picchiare, chi ha la forza oltre che il coraggio di andare dalla Merkel o da Hollande e dirgli così non si fa, non ce l'ha nessuno, perché non sono dei premier forti, dei premier che hanno un mandato popolare forte. Il fatto di essere anche giovani è molto carino, è molto bello, è anche piacevole, ma in certi momenti dimostra tutta la fragilità di essere giovani. Cioè, ecco, mi ha colpito di recente un'intervista anche di Prodi, che disse in questi momenti, dice, il ministro delle finanze tedesco Schäuble è forte e quindi può imporre la legge del più forte. Purtroppo anche in politica funziona così. Però tra tre minuti, dopo la pubblicità, con Antonio Padellaro e Alessandro Sallusti, vorrei capire questa storia delle intercettazioni e qual è la tenuta del governo, perché qualcuno vocifera di governo che rischia di cadere, gli impasti tecnici, insomma, le solite questioni di politichese all'italiana. Tra poco. Allora, siamo con Alessandro Sallusti, direttore del giornale, Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano. Le intercettazioni uscite su Renzi sul Fatto Quotidiano, Sallusti, per coerenza immagino che non le avresti pubblicate, dopo tutta la vicenda, le intercettazioni di Berlusconi, eccetera, anche queste di Renzi allora fanno schifo. No, ma attenzione, io ho pubblicato le intercettazioni di Berlusconi e pubblico tutte le intercettazioni di Renzi, i giornali devono pubblicare le notizie di cui dispongo. Beh, insomma, quelle proprio con le oggettine, eccetera, io non le ho lette proprio sul giornale. Le intercettazioni, adesso non ti dico le paginate di verbali integrali, ma le intercettazioni, il giornale le ha sempre pubblicate, le intercettazioni che hanno un senso, fondamento giudiziario o politico. Il problema è che queste intercettazioni non credo che dal punto di vista giudiziario dimostrano nulla, ma dimostrano l'ipocrisia di Renzi quando aveva annunciato all'Italia che era finita l'epoca, come l'aveva chiamata forse Padellaro, mi posso occorrere della politica delle lobby, no? Cioè di fare alleanze con i poteri forti o quei poteri più o meno occulti per governare. Ecco, lui si sta comportando esattamente all'incontrario di quello che sostiene. È come gli altri. Padellaro, allora queste intercettazioni, poi magari se vuoi c'è anche, la questione dei costumi sessuali di Berlusconi, sui quali è intervenuto un garante della privacy, ha bloccato tutta la pubblicazione delle ultime, gli ultimi sviluppi, no? Però partiamo da Renzi, perché le avete pubblicate? Perché le abbiamo trovate. Beh, questo certamente. No, ma il problema è che i giornali fanno questo lavoro. Insomma, il nostro Vincenzo Iurillo e Marco Lillo non è che hanno dovuto scavare in una miniera per trovare, nel senso che erano atti che erano già a disposizione degli avvocati, allegati, che quindi, perché si parla sempre dei magistrati. No, sono gli avvocati in genere. Spesso sono le parti. Con grande affetto per la categoria, ovviamente. Ma no, ma insomma, adesso non lo so, perché ovviamente c'è il segreto professionale, ma è da parte dei colleghi, giustamente. Ma l'impressione è che quegli atti girassero. E sono stati bravi i nostri colleghi a darli. Sono interessantissimi. Sono d'accordo con Sallusti, è proprio quella la questione. Cioè Renzi era il grande, Renzi è l'uomo del cambiamento, l'Italia cambia verso, la rottamazione della vecchia politica, ma insomma vi siamo dimenticati come si è presentato e quanta popolarità Renzi su questa canzoncina ha accumulato. Adesso al di là poi del fatto che era giovane, 40 anni, rappresenta anche anagraficamente una rottura, una novità di fronte alla passata. E invece ci fa lo stesso. Invece noi vediamo come, perché la frase diciamo più indicativa è quella che riguarda Letta, non tanto il giudizio su Letta, un incapace, ma il fatto che lo mettiamo al Quirinale perché così lo sistemiamo lì, e purtroppo era così incapace Letta che non aveva neppure l'età, no? Sono quando uno è incapace, incapace. Sì. No, gli mancavano 3 anni, è una battuta ovviamente, sì, ma che cosa significa? Significa che tu consideri la più alta istituzione della Repubblica un posto come un altro, cioè domani decidiamo il comandante della Guardia di Finanza, poi il Quirinale, poi quello lo mettiamo lì, cioè, ma non è un... Ora, cioè avete voluto raccontare attraverso questa intercettazione anche lo spaccato di una politica vecchia maniera, che non è cambiata. Questa è la grande delusione effettivamente di Renzi. E invece la questione delle abitudini sessuali di Berlusconi, le ultime vicende, io sono abbastanza d'accordo sul fatto che forse lì anche basta, o no? Un conto è l'intercettazione, un tempo ai processi, quando era premier, ma adesso sapere i particolari che sono venuti fuori da questa Iris Berardi, di quello che gli faceva, c'è davvero bisogno di saperlo? No, ma questo, ripeto, c'è una regola che si può anche può avere anche le sue eccezioni, quella della pubblicazione o della non pubblicazione di certi aspetti della vita sessuale, eccetera. È evidente che questa è una nuova ondata di documenti, dimostra quello che già sapevamo, cioè che in realtà io penso che Berlusconi in questo caso si sia messo lui nelle condizioni di essere la vittima e di essere spolpato vivo da queste qui, insomma, era un po' la dimostrazione di come ci fosse ormai un rapporto tale di subordinazione rispetto a queste persone che io posso definire dei ricattatori, delle ricattatrici, per cui avevamo uno degli uomini più potenti del paese con loro che lo seguivano, cioè paga del paese in una condizione di subalternità. E vorrei dire una battuta, se può sembrare paradossale. Io ho l'impressione che alla fine, in questo caso, l'intervento della magistratura abbia salvato Berlusconi da questi piragna. Perché ringrazi i magistrati. In questo caso non direi che Sallusti, un bel titolo sul giornale domani: Berlusconi, grazie ai magistrati. Trovo che quando si entra nella sfera privata, così privata e così intima, come dire, anche fare gli spiritosi. Perché oggi succede a lui, domani potrebbe succedere a noi, non a livello di intercettazioni pubblicate sui giornali quotidiani, ma all'interno della comunità in cui viviamo, piccolo grande che sia. Io credo che quelle intercettazioni dimostrano in maniera lampante la malafede dei magistrati, perché i magistrati dovevano accertare un'ipotesi di reato, ma il fatto di insistere nelle domande su l'ipotesi di reato poteva essere il ricatto, poteva essere la prostituzione, poteva essere. Ma invece hanno insistito sulla sui gusti sessuali. No, ma dimmi come, dimmi cosa gli facevi e cosa ti faceva, non ha nulla a che fare con un'ipotesi di reato. Allora il fatto di insistere nel chiedere con tutta la forza che deriva dal fatto di essere un magistrato di fronte a delle ragazze evidentemente sprovvedute, oltre che discutibili, i particolari più intimi e inutili rispetto all'inchiesta del rapporto con un uomo e poi di trascriverli, questo significa veramente, è la prova provata dell'assoluta malafede. Perché il magistrato doveva provare l'ipotesi di ricatto non come lo baciava. Vabbè. Se lo baciava con la lingua o senza lingua, o se lo baciava nell'orecchio o da un'altra parte. Richiudiamola sulla politica. Fatemi un pronostico secco. Si voterà l'anno prossimo, perché questo è Sallusti. No, votare tenderei a discutere, perché questo Parlamento non vuole andare a votare, quindi che lo voglia Renzi, lo voglia Berlusconi o lo voglia la Merkel, il Parlamento italiano non vuole andare a votare. Anche, non anche se lo vuole la Merkel. Padellaro si vota l'anno prossimo? No, tenderei a escluderlo, ci saranno ancora così un po' di montagne russe, perché il governo Renzi non è solidissimo in tanti aspetti, però non credo che sia, anche perché poi non dimentichiamo che abbiamo un Presidente della Repubblica come Mattarella, il quale non credo che abbia, sia uno con una natura così sbarazzina che si mette a sciogliere le camere, se non ha mille motivi per farlo. Ah beh, cioè, questa è l'altra prospettiva, dovesse anche cadere il governo non si va a votare comunque, ma in Italia siamo abituati così. Va bene, io vi ringrazio intanto Antonio Padellaro, Il Fatto Quotidiano, Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Dopo il traffico, i nostri ascoltatori. Allora, Paolo da Alessandria ci chiama. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Allora, io devo dire due cosette molto semplici. Io ho 30 anni che vado in vacanza in Grecia e sono ritornato da una settimana e conosco molto bene l'evoluzione della situazione, che i greci semplici, le persone normali con le quali parlavo tutti i giorni, avevano anticipato ampiamente. Guardi che io sono convinto che i tedeschi abbiano il vizietto di cui parlavate prima, che prima lo utilizzavano in un modo brutale, ora è molto più sofisticato, molto sotterraneo, ma i risultati sono stessi. Cioè, però, siamo alle analisi antropologiche proprio, i tedeschi sono così. Certo, ce l'hanno, dai, su. Comunque, a parte questo, i greci ci avevano ampiamente fatto capire che stavano spendendo, stavano in un sistema che era insostenibile. Io lavoro nella sanità e c'erano delle cose che ora si sono trasformate paradossalmente in un rebound terribile per la società. Insomma, con una però lei stesso dice che insomma, hanno capito che stavano spendendo e spandendo. Ma lo sapevano, spendevano dei soldi che non avevano, aeroporti internazionali di isolette di 50 chilometri. Ma capisce porti. Paolo, che voglio dire, allora perché è colpa adesso, visto che la buttiamo così, dei tedeschi brutti e cattivi? Non è colpa dei tedeschi, come ha detto qualcuno che parlava con lei, che li hanno prima fatti spendere perché questi soldi non si dovevano dare, hanno accettato delle certificazioni false e tutti a dormire, no? Quando abbiamo società di revisione che controllano i peli di tutto e poi invece lì niente. Vabbè, ma certo, ma Paolo, no, ma questa è la lettura. La lettura prima la faceva Alessandro Sallusti, il direttore del giornale. La ringrazio, Paolo. Andrea, Roma, da Valeria. Valeria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Milan, buongiorno a tutti. Eccoci. Ma mi spiace che non ci siano più Sallusti. Padellaro, avrei tanto piacere. Io ho 34 anni, quasi 35, quindi sono cresciuta nel ventennio berlusconiano. Sì. Dunque io ho vissuto la non politica, l'immobilismo totale. Nei miei 20 anni di crescita, purtroppo non solo poi politica ma anche televisiva, sono stata completamente influenzata da tutto quello che è stato il berlusconismo. Io non riesco a capire come si possa dire, non lo dico perché sono pro Renzi, ma per la prima volta io sento e percepisco che si sta facendo della politica, che si stanno tentando di fare delle riforme, che si parla delle riforme, per quanto possano cose essere cose che lei non ha visto in questo mai visto, mai conosciute, quindi non riesco a capire cosa intendono quando dicono lui, ah beh, si sta comportando come i vecchi della politica. No, cosa no, si riferiva alle intercettazioni, non so se le ha viste le intercettazioni, sì, con sì, il numero 2 della Guardia di Finanza, cioè il tramare, quell'idea sospetta di tramare. Ma, sì, ma a me sembra veramente una frase, cioè abbastanza ipocrita come affermazione, perché solamente per il fatto di essere stati intercettati su una questione del genere si può andare a discutere e dire che non è un soggetto che sta tentando di fare delle innovazioni, no, e dei cambiamenti. Ma questo, quando questo si entra in un sistema politico, si entra, che bisogna fare? Non bisogna più sedere ai tavoli politici, parlare con chi conta, eccetera. Ma Valeria, infatti questa è la sua opinione, come sa, noi rispettiamo le opinioni di tutti, sacre dei nostri ascoltatori. Intanto però vorrei salutare una persona. È il momento, è il giorno in cui parte il viaggio che Samuel Marchese in end bike insieme ad altri suoi compagni, sono una ventina in tutto, tra amici che portano che sono portatori di varie disabilità, insieme ai loro istruttori, i loro aiutanti, partono oggi da Siracusa. Sapete che è un viaggio che seguiremo tutti i giorni, partono da Siracusa per arrivare all'Expo, faranno tutta l'Italia da Siracusa all'Expo e oggi è il giorno della partenza. Allora Samuel, ciao, come va? Siete pronti? Ciao Alessandro, qui è tutto bene, mi trovo già in piazza da dove partiremo, siamo in piazza Duomo da Siracusa. Bene. Qui il tempo è sereno, speriamo che ci accompagni per tutto il tragitto sereno. Sono molto emozionato, come si può ben capire. Certo. Questa notte non sono riuscito a prendere molto sonno, ovviamente, perché sapendo che oggi era il giorno della partenza, l'eccitazione c'era, l'emozione c'era, e i miei compagni anche loro sono molto emozionati, adesso ci stanno recando qui per partire. Siamo 9 atleti, più gli accompagnatori, quindi una ventina di persone. Questa prima tappa sarà di circa 25 km. Sì. Stimiamo circa un'ora e mezza per arrivare a destinazione. Che si terrà al comune di Priolo. A Priolo. Allora facciamo così, non ti rubiamo altro tempo, Samuel. Davvero in bocca al lupo. 9 atleti portatori di disabilità che vogliono lanciare questo messaggio e dire si può fare, si può arrivare, si può lanciare questo messaggio positivo. Partite oggi Siracusa Priolo, ma arriverete fino a Milano e noi vi seguiremo tutti i giorni, tutti i giorni qui a Radio 24. Intanto un abbraccio Samuel, e se volete informazioni scrivete a noi su questo viaggio, anche poterli magari aiutare, supportare, scrivete a noi una mail 24mattino@radio24.it, noi vi daremo tutti gli estremi. C'è Giuseppe da Roma ancora? C'è spazio anche per lui? Giuseppe, grazie per l'attesa, buongiorno. Sì, eccoci, buongiorno Milan. Allora, io volevo criticare veramente l'intervento del direttore Sallusti. Sì. E anche un po' criticare il fatto di averlo invitato, perché è veramente una persona che parla a livello così populista e poco tecnico, è un'offesa per questa proprio radio. Ma noi invitiamo tutti. Perché veramente parlare di Europa così come un cappio. Allora, l'Europa serve per tenere bassa l'inflazione, fondamentalmente. Allora, quindi se noi non vogliamo ritornare come negli anni 70, dobbiamo comunque stare dentro determinate regole. E poi anche questi discorsi, non so, sui questi premier che potrebbero avere in mano diciamo le sorti dell'Europa. Allora, qua a comandare nel 2015 è esclusivamente il mercato. Cioè qua sono stati i mercati che hanno deciso che la Grecia non poteva uscire dall'euro, perché se fosse uscita la Grecia di conseguenza sarebbero uscite Italia, Spagna. Quindi è inutile che continuiamo a fare i discorsi sul fatto che noi possiamo decidere. Non possiamo decidere, è il mercato. Noi siamo schiavi del mercato. Io volevo soltanto dire questo. Va bene, nel mercato bellezza. Giuseppe, comunque insomma, noi invitiamo tutti, non dica è sbagliato invitarlo, perché noi ospitiamo, è la mia filosofia proprio, ospitare e dare la voce a tutti, dopodiché ognuno si fa un'idea, la sua opinione è questa, come vede la sua opinione anche ben critica nei confronti di Sallusti è ben accetta qui, Allora c'è la nostra segreteria telefonica pronta? Sì, noi abbiamo una segreteria telefonica allo 02 46 52 44 92, anche lì potete dire ciò che volete. Ciao Milan, attenti voi due ad ammazzare le zanzare, altrimenti gli animalisti poi ammazzano voi. Attenti, ammazzate piuttosto Cruciani che vi perdonano. Ciao.